Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone. Buongiorno e benvenuti. Ospite oggi di Obiettivo Salute Notizie la professoressa Ilaria Dorigatti, che lavora presso il Dipartimento di Epidemiologia delle Malattie Infettive all'Imperial College di Londra. Professoressa Dorigatti, buongiorno. La ringrazio per essere qui con noi per parlare del nuovo report, il report numero 20, pubblicato sul sito dell'Imperial College il 4 maggio scorso. Questo report parla di scenari futuri e del ruolo della mobilità. Ce ne può dare una breve sintesi? Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, in questo nuovo report abbiamo utilizzato un modello statistico che usa i dati sui decessi rilasciati dalla Protezione Civile e i dati di mobilità rilasciati da Google per stimare il numero di infezioni presenti all'1 maggio nella popolazione e l'intensità di trasmissione di Covid-19 nelle diverse regioni d'Italia. Ecco, l'intensità di trasmissione in termini epidemiologici si chiama R0, che misura il numero medio di infetti generati da un infetto. Quindi, se in media l'R0 è sopra 1, ovvero se ciascun infetto produce in media almeno un contagio, si ha un'epidemia, altrimenti no. Allora, in questo modello assumiamo che la mobilità, che possiamo vedere come un'approssimazione dei contatti, determina l'intensità di trasmissione del virus. Allora, innanzitutto abbiamo stimato l'impatto del lockdown, che ha frenato l'epidemia e ne ha abbassato il picco rispetto a quello che sarebbe stato il suo corso naturale. Di nuovo, in termini epidemiologici, ha abbassato l'R0 da un valore iniziale tra il 3 e il 4 a dei valori sotto 1 in tutte le regioni d'Italia. Dopodiché abbiamo simulato degli scenari futuri. Ci siamo chiesti cosa succederebbe se, dato il numero di infezioni stimato nella popolazione, al 4 maggio andassimo ad aumentare la mobilità. E abbiamo trovato che anche solo un 20% di incremento della mobilità, in assenza di ulteriori interventi come il distanziamento sociale e l'uso di dispositivi di protezione come le mascherine, potrebbero far ripartire l'epidemia e generare una seconda ondata di infezioni. Cosa si può fare, professoressa Dorigatti, allora per evitare la ripresa dell'epidemia e una seconda ondata? Le misure di distanziamento sociale, come ad esempio ridurre i contatti, tenere le distanze tra le persone e l'uso corretto delle mascherine, possono ridurre l'intensità di trasmissione. Di quanto dipende dal comportamento delle persone e dalla capacità di attenersi alle raccomandazioni. Quindi è importante che ognuno faccia la sua parte, che si indossino le mascherine, che si limitino i contatti non necessari e che si mantengano le distanze tra le persone. Inoltre è necessario intensificare la sorveglianza epidemiologica facendo tamponi e con il tracciamento dei contatti. Queste strategie, che ci danno informazioni sul numero di casi sospetti o confermati nella popolazione, permettono non solo di identificare e isolare tempestivamente le persone infette ed eventuali focolai, ma ci permettono anche di avere stime in tempo reale dell'intensità di trasmissione, e queste stime servono per valutare eventuali aggiustamenti alle misure implementate per fare in modo che non ci sia, appunto, una seconda ondata. Bene, per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e vi invito a visitare la pagina Facebook di Obiettivo Salute, a partecipare all'iniziativa che abbiamo lanciato sulla gratitudine e ad allenarvi con noi insieme agli esperti del Centro di Ricerca dell'Università Cattolica Engage Minds Hub. Buona giornata, vi aspetto.